È bello essere qui e insieme. È già febbraio, è incredibile, non è incredibile? È già, questo è l'inizio di febbraio, perciò sbrighiamoci. A che cosa? Non lo so, ma sbrighiamoci perché è importante. Anzi no, lo so. Il pastore ci ha guidati nel mese di gennaio in un bellissimo percorso di come te. C'è pure Rosanna, vedi che bello. Benvenuta. In un percorso stupendo di come te. Ha detto che quest'anno, poi mi riprenderà il pastore, dice, ma io non ho detto queste cose, però in quest'anno dobbiamo diventare più belli. Ha detto, Colossesi 3, fate morire. È già tuo bello, tuo marito, non ti preoccupare, bellissimo. Colossesi 3, fate morire le membra morte. È incredibile. E poi ci ha guidato anche in quello che è il privilegio. Il privilegio di poter assomigliare a Cristo. Non dobbiamo credere alla bugia del diavolo che ci fa vedere bello ciò che non è bello e che purtroppo ci rendiamo conto solo dopo che non era bello. E in più ci hai guidati, ecco che vedete che ci dobbiamo sbrigare, che realmente ci dobbiamo sbrigare, di assomigliare al Signore, assomigliare a Lui. E questo voleva dire, come il pastore ha insegnato, a non essere offendibili. Ci offendiamo per ogni piccola cosa, ce la prendiamo. Di più marito e moglie, però in genere siamo ben armati ad offenderci, anzi già partiamo con il piede dell'offesa. Se uno mi parla mi sta offendendo, non è così. Non offendibili, ma qual è il termine che correggibili. Sempre correggere, anche quando hai ragione, fatti correggere, perché questo ti fa assomigliare al Signore. E poi l'aspetto anche più importante, essere aperti, marito e moglie, aperti, amici, aperti, fratelli e sorelle. L'apertura mette al nudo il nostro cuore e permettiamo di essere aiutati. Era più o meno così, pastore? Va bene. Però adesso veniamo a te, perché il tema è sempre come te. Come te. Allora io prenderò solo un piccolo, gigantesco aspetto della vita di Gesù, perché noi gli dobbiamo assomigliare. Gesù, lo sappiamo, è venuto per salvare l'uomo, ha dato la sua vita per questo. Gesù è venuto per portare più vicino a noi il regno di Dio. Gesù è venuto per farci conoscere il Padre, è incredibile. Però tutto questo, sapete come ce l'ha trasmesso? E lo andiamo a leggere. Ce l'ha trasmesso tramite Marco capitolo 10, ce l'ha trasmesso tramite questo aspetto della sua vita. Lui ha realizzato, vedete quello che è scritto. Ma Gesù, chiamatili a sé, disse loro, non sapete che quelli che sono reputati principi di delle nazioni signoreggiano e che i loro grandi le sottomettono al loro dominio. Ma non è così tra di voi. Anzi, chiunque vorrà essere grande fra di voi sarà vostro servitore, e chiunque tra di voi vorrà essere primo sarà servo di tutti. Ascoltate, perché anche il figlio dell'uomo, Gesù dice, anche io, non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Gesù è venuto quale servo, è venuto per servire, e per mezzo del suo servire, del suo servizio pratico, lui ha potuto trasmettere il regno di Dio, lui ha potuto trasmettere la salvezza ancora noi a oggi, a noi, ha potuto trasmettere la visione del Padre, del nostro Padre Celeste. Perciò il tema di oggi, come te, servire, servo, è da lì che noi partiamo. Sai che il servire, proprio il servire, praticamente, io parlo praticamente, pensa all'area a cui tu appartieni nella Chiesa per servire, rifletti sopra. Il servire innesca un meccanismo dentro di noi che abbraccia tutto la nostra vita, abbraccia il cambiamento, il rinnovamento di tutti quanti noi, come Gesù ha potuto trasmettere il regno di Dio attraverso il servire. Anche il servizio che tu svolgi ha la stessa funzione che Gesù ha fatto, che Gesù ha avuto. È incredibile. Ora, io anni fa ho sentito una frase che mi ha messo sotto sopra, e la frase è questa: i volontari, i servi, sono il sangue della Chiesa. Che cosa fa il sangue? Ma lo vediamo tramite un'immagine. Mi sono proprio divertito a vedere. Lo conosciamo cos'è, no? È la rete vascolare del nostro corpo. Le arterie portano il sangue, le vene lo riportano, i capillari vanno dappertutto. Vedete, tutto il nostro corpo, dalla punta dei piedi, e va ancora bene. Il sangue nutre anche la testa. Che cos'è la testa? La Bibbia che dice che è la testa? Il capo. E Gesù? Non lo so come accade, non lo so il perché, ma una cosa è certa, che il sangue va a nutrire anche il capo. E nutre anche, vedete, nonostante che è il cuore a pompare il sangue, non è una lezione di anatomia, è alla maniera mia, è chiaro, non, va bene. Nonostante che il cuore pompa sangue dappertutto, lui stesso pompa il sangue nel cuore stesso, perché deve essere nutrito, in quanto il cuore è un muscolo, e noi il cuore lo paragoniamo ai ministeri, ai cinque ministeri. Quindi il mio servire sostiene un ministro, sostiene un ministerio. Noi dobbiamo affiancare i ministeri portanti nella Chiesa. Nutre ogni organo, che poi non è un qualcosa che non sta né in cielo né in terra. No, è Paolo che dice nel 1 Corinzi 12, che dice che noi siamo il corpo e che ogni parte del corpo è supportata, è aiutata, è stimolata dall'altra parte, dall'altro organo. Quindi il sangue va a nutrire, il mio servizio va a nutrire proprio tutto questo, ogni muscolo e ogni organo del del nostro corpo, di noi, di tutti quanti noi, stai nutrendo il tuo fratello. Forse non te ne accorgi nemmeno. Il tuo servizio, il tuo piccolo servizio, il tuo grande servizio sta nutrendo l'altro. Ah, semplicemente dell'incredibile. Nutre me stesso, nutre te stesso. È chiaro, noi siamo nutriti anche dal servizio mio stesso. Il mio servizio mi nutre, è incredibile. Mi accende, mi obbliga a pregare, mi obbliga a preparare. Adesso sto predicando, no? Tutto questo mi ha obbligato già a tante cose, a pregare già da tempo, poi a prepararsi, poi a leggere di più la Bibbia. Lo leggi di più quando fai qualche servizio, è vero? A leggere di... È incredibile quello che innesca proprio tutto un movimento dentro di noi che ci porta a essere, come abbiamo sentito all'inizio del mese, a essere più assomiglianti a Lui. E fa ancora una cosa in più. Se io servo, quel motore mi permette di agganciare anche il carrello, il rimorchio, il carrello che è il mio fratello. Fa anche rima. Quindi il tuo servire aggancia anche l'altro, trasporta anche l'altro. Io voglio fare esempi pratici affinché noi non ci perdiamo, perché io facilmente posso perdermi in quelle che sono le riflessioni mie stesse. Prendiamo alcuni servizi fra di noi e io ho pensato l'accoglienza è anche... Il benvenuto, che sono due cose diverse, eh? Non le confondiamo, non è benvenuto accoglienza, benvenuti sono alcuni e l'accoglienza sono altri, sono squadre diverse, ma anche il benvenuto. Tu arrivi e trovi qualcuno con un cartello sulla pancia, a chi ce l'ha. È vero? E c'è scritto... Tante di quelle belle cose. Poi guardi la faccia, com'è la faccia di quel fratello o di quella sorella? Sorridente. È sorridente. È incredibile, è sorridente. Ti sorride. Chi fa parte di questi? Anche all'accoglienza. Ti accompagnano con tutto il sorriso e con tutta la benevolenza, ma con l'obbligo che ti devi sedere là. Va bene? Ma ti accompagnano con dolcezza e con il sorriso. Chi fa parte di questi gruppi? Sono persone estroverse. Ecco, vedi, poi... No, poi lo faccio anche alzare. Ecco, no. Eugenio, ti vuoi alzare per piacere? Conosciamo Eugenio? Non è la persona più estroversa di questo mondo, è vero? Però lui si obbliga, quando tu arrivi, a farti un sorriso e ad accoglierti. È vero o no? A chi ha fatto del bene lui? A lui stesso. A lui stesso. Grazie Eugenio, scusami, Ed è vero, ci sono persone estroverse che ce l'hanno il sorriso già stampato sulla bocca e ci sono persone introverse o riservate o timide che hanno più il sorriso, che lo devono fare, lo vedi proprio che lo devono fare, ma è bello, io godo più di quel sorriso, dico quanto si è obbligato a fare una cosa del genere per mostrare il bello della sua chiesa, è incredibile, questo è servire, questo è veramente portare aiuto a tutti gli altri, qualsiasi è la persona che ne fa parte. Il servire, vediamo un'altra frase che a me piace anche, il servire ti fa cambiare in meglio. Il servire ti fa. Anzi, prendiamo ancora un altro esempio, e prendo il mio esempio per non prendere la Servolution. Quanti fanno parte della Servolution? Vediamo le mani. Cioè, praticamente è un bel nome per indicare che spazziamo e puliamo per terra, va bene? Vedi quanti. Allora, quando io sto lì con ho l'aspirapolvere, prima era con il moccio, poi l'aspirapolvere, con l'aspirapolvere, e allora e vai lungo tutte le sedie e vedi. Prima, all'inizio, quando passavo nelle sedie, allora e lì c'era la carta, e vedi questa, la buttata per terra invece di mettersela in tasca, e poi ci sono le briciole sulla sedia e devi pulire le briciole sulla sedia. Sapete che faccio adesso? Ho imparato, vedete, si impara. Che cosa faccio? Ogni volta che vede qualcosa un po' fuori posto, prego per quella sedia. Per chi era su quella sedia. Poi vado un po' avanti e rido di me stesso. Perché? Perché mi viene da pensare, e se quella sedia era vuota? Allora, sapete qual è la risposta che ho ricevuto facendo così, sempre pregando? Meglio, perché stai pregando che quella sedia venga occupata da qualcuno se non mettiamo il cappotto sopra. È incredibile, oppure se non ci sediamo all'epoca del Covid. Posto libero a destra e posto libero a sinistra, è vero? Dice, sto più largo. No, ma va bene, però prega, ecco, io mo vedo, bello, io ho visto, vedo Alberto che ha abbracciato la sedia a fianco, quindi in pratica sta pregando che quella sedia si riempie. Amen, amen. Questo è servire. Nel servire assomigli a Gesù. E così possiamo fare mille e mille esempi. Ma quelli sono i minuti che mi sono rimasti o che sono consumati? Sono quasi ancora nell'introduzione. No, va bene. Va bene. Un altro aspetto. Se tu, proprio tu, stai dicendo: io non posso. E il che è anche reale, perché abbiamo tanti impedimenti, vuoi le nostre infermità perché ce l'abbiamo, vuoi le nostre problematiche che dobbiamo risolvere e stare attivamente sempre impegnato. Non ho né il tempo, né la forza e né la possibilità di fare qualcosa. Beh, e allora questa mattina ti do una notizia eclatante. Tu puoi far parte del gruppo più importante di questa Chiesa. Qual è? La preghiera. Il sabato mattina. Per me è un poco difficoltoso la mattina, però ci sono che intrepidi che lo fanno la mattina, gli uomini si alzano alle 6 o prima per essere presenti alla preghiera. Quello che è più facile, di cui anch'io faccio parte, è il servizio di preghiera. È incredibile, c'è un mare di persone che ha dato il proprio nominativo a Elisa o a Micaela e che ricevi, non ti devi alzare dal letto. letto, non ti devi alzare dalla tua poltrona, non devi fare niente. Ti viene questo messaggio e dice: prega per. Abbiamo sentito notizia che Tizio e Caio ha bisogno di preghiera per. E tu dove sei? Quello, qualsiasi cosa stai facendo, il cellulare ce l'abbiamo sempre a portata di mano, anche se facciamo i piatti, va bene? Allora lo vediamo subito. Ricevi la notizia per chi pregare. E quello che stai facendo e dove ti trovi lo puoi fare in una maniera libera. Vieni a far parte del gruppo più importante della Chiesa, che serve la Chiesa in una maniera incredibile. Quindi no, io lo dico, non c'è scusa, non c'è scusa. Ognuno di noi può fare parte. Entra Farando, vai a dare il tuo nominativo, il tuo indirizzo, cioè il telefono, o a Elisa o a Micaela. Entri a far parte di questo, non ti devi proprio muovere, niente, ti viene tutto a casa ed è bello. Ma continuiamo, perché io ho il sospetto che quelli sono i minuti che mi sono rimasti. Come Gesù, anche io, anche tu, ti devi obbligare ad amare la tua Chiesa. Io amo la mia Chiesa, io amo la mia Chiesa, almeno per tre motivi, io amo la mia Chiesa. Uno, perché Gesù è morto per questa Chiesa, è morto per il mio fratello, è morto anche per quel fratello o quella sorella, è morto. Perciò io sono obbligato ad amare. Il secondo motivo perché è la mia Chiesa. Perché è la mia Chiesa. Chi è che conosce il detto napoletano? Non c'è Davide in mezzo a noi, no? No, non è venuto, che è napoletano. Dice: ogni scarrafone è bella mamma soie. È la mia Chiesa. Zoppa, veloce, lenta, una volta bella, una volta meno bella, è la mia Chiesa e io la amo. Il mio terzo motivo, sai qual è? Perché ci sei tu, io amo la mia Chiesa. Anzi, facciamo una cosa, dillo a qualcuno a fianco, non a quelli che conosci, più a quelli che non c'è. Perché ci sei tu? Oh, le teste non le vedo muovere. Perché ci sei tu? Io amo la mia Chiesa. È vero. Può essere come vuoi il fratello, la sorella, criticabile, ma Gesù è morto per lui. Però ora torniamo seriamente e voglio invitarvi ad alzarvi in piedi. Eh sì, l'ho detto che li facciamo i movimenti questa mattina, quindi mo avremo il momento anche di abbracciare. Però è una domanda che ancora non appare, buona che non appare, è una domanda che devi fare all'altro. Però, logicamente, lo fai a chi sta dietro di te, perché chi sta a fianco generalmente perché conosce tuo marito, tua moglie, giusto? Mi sbaglio? No. Allora ti giri, vai a quello di dietro, se c'è anche a fianco, se c'è che con cui non stai molto. E la domanda è questa: che cosa ami di questa Chiesa? non hai nemmeno un minuto per riflettere, lo devi già avere dentro di te. E non sono una delle tre cose che ho detto io, va bene? Quelle le ho detto io e appartengono a me. Mo devi inventare un'altra cosa, ti devi rivolgere e dire un motivo, almeno uno, non sto chiedendo tre, hai visto? Almeno uno perché ami questa chiesa. Vai e rifai fai la domanda. Dario, una chiesa non è una persona, va bene? Adesso puoi anche abbracciare il fratello e la sorella, va bene? Già fatto, già l'avete fatto. Adesso io scendo per chiedere a qualcuno che cosa ha detto l'altro, va bene? Mm-hmm. Vediamo a chi chiediamo. Dove trovo libero per andare a lì. La domanda è sempre: che cosa ami di questa chiesa, va bene? E io sto girando per trovare un buco per arrivare verso il centro, ma è difficile, li avete già occupati bene bene, e quindi chiediamo, vabbè, al primo che mi capita. Voglio sapere che cosa ti hanno detto che amano di questa chiesa, o chi te l'ha detto. Allora, perché famiglia? Perché è famiglia, bellissimo, eh? Perché è famiglia. Beh, non l'hai detto con tua moglie, no? Pensavo che per l'accoglienza, che siamo famiglia. Per l'accoglienza, famiglia, va bene. Tutte queste cose, va bene, potremmo continuare ed è molto bello. È bello che noi possiamo vivere l'unità attraverso il servizio. Adesso basta, Loreda, perché poi dopo di quello, sapete che cosa viene? Io amo della mia chiesa, però, poi viene il però, allora non ci dobbiamo prolungare molto, va bene? Che bello. Io lo torno a ripetere, io amo la mia chiesa e mi impongo e mi impegno di amare la mia chiesa anche quando quel qualcosa non va secondo il mio desiderio o i miei principi. Io mi impongo di amare la mia chiesa, e questo vuol dire semplicemente, quando tu ti impegni vuol dire essere operativo e non valutativo, ed è quello che noi dobbiamo essere, c'è la scritta, vedi, operativo, non valutativo, che cosa vuol dire? Lo spiego tramite, almeno a modo mio, tramite una storiella di Gesù, che anche lui avrà inventato, sentito, va bene? Quella delle due case. Tutte e due le case erano costruite bene. Avevano pareti, tutto, un tetto, ogni cosa. Tutte e due le case, se l'ho andata a leggere in Matteo, credo, capitolo 7, leggete che hanno avuto lo stesso tipo di tempesta, pioggia, vento, smottamenti e così via dicendo. La differenza è che una è caduta e l'altra no. Perché? Ho dato la mia spiegazione. Perché uno è stato valutativo, ha scelto il luogo vista mare, più vicino possibile al mare, semmai sulla spiaggia. Meglio di così non si poteva avere ed ha costruito. L'altro invece è stato operativo. Ha scavato fino a trovare la roccia e da lì ha costruito. Ed è per quel motivo che non è caduta quella casa. È importante essere operativi. C'era un detto che io mo non lo so dire, che dice: chi fa e sfa non perde mai tempo, una cosa del genere. È vero, chi lo conosce non lo so. Chi fa e disfa non perde mai tempo, ed è vero, perché sei operativo. Operativo vuol dire entrare in azione. Se mai stai entrando in azione nel settore che non è addetto a te, che non è consono ai tuoi modi di essere, ma entri in azione, perché è strada facendo. Quante volte lo diciamo? Se la macchina è in moto la puoi guidare, ma se la macchina è ferma fai solo finta di guidare. Questo è il principio del fondamento. Il principio del fondamento è, vi ricordate come è scritto anche in Giacomo? La pietra angolare. La pietra angolare dà più direzione, due in maniera particolare. Una dice: impara. Impara da quello che ascolti. Fai la domanda a te stessa, a me stesso: sto imparando da quello che ho ascoltato questa mattina, che sto ascoltando? Risponditi: che cosa ho imparato? Che poi l'imparare non è imparare per imparare, ma è prendere decisioni. Quello è imparare, prendere decisioni. Nel prendere una decisione vuol dire che hai imparato. Non dipende da chi, da come viene trasmesso, da chi lo trasmette, da come uno predica, come uno è più avvincente dell'altro, l'altro è più così. Non ha importanza, ma quello che ascolti, che cosa ti sta dando, a quale decisione ti sta portando. E poi la seconda direzione della pietra angolare è: rilascia, cioè dai anche quando non hai. Gesù ha dato anche quando non poteva fare più niente. Era sulla croce. Qual è stata l'ultima parola? È stato verso gli altri. Che cosa ha detto? Perdona loro, perché non sanno quello che fanno. È incredibile, una delle ultime frasi. Perdona loro, ha pensato agli altri. Eppure non poteva fare più niente, stava per spirare. E questo vale anche per noi. E anche, vedete, anche dal racconto di Gesù emerge questo dare quando non hai. C'è la storia del pastore che aveva 100 pecore. Che cosa è successo? Che una di queste pecore, una, si è smarrita. Che cosa ha fatto il pastore nel racconto di Gesù? Ha lasciato 99 pecore per andare in cerca di quell'una, che era forse ribelle, che non si atteneva agli altri, che non gli piaceva stare vicino alle altre pecore e così via dicendo. Ha lasciato le 99 per andare in cerca di quell'unica pecora. Cioè, noi, parlandoci chiaro, c'ho 100 pecore, perdi un, ma ne ho 99, io devo badare alle 99, non a quell'una. Perché Gesù ha lasciato 99 pecore che andavano bene, che stavano bene, che pascolavano bene, per andare in cerca di quell'una che semmai non era nemmeno fra le migliori? Per un solo motivo, per un solo motivo. Perché è la perduta che ti dà gioia. Perché Gesù ha detto, la parola di Dio dice che c'è più gioia quando un peccatore si ravvede che non 99 che stanno belli, comodi nella loro poltrona. C'è più gioia nella sedia, poverini quelli che si trovano con la sedia vuota, c'è più gioia nella sedia vuota accanto a te, perché vuol dire che hai l'impegno che quella sedia venga riempita da qualcuno che non conosce il Signore. C'è più gioia in quella che in tutti noi, sì, lo dobbiamo dire, c'è più gioia quando noi riusciamo in un modo o in un altro a trasmettere a chi non conosce il Signore, a chi non ha preso decisione per la vita eterna, a portarlo dentro e a farlo sedere in quella sedia, che non per tutti gli altri che sono seduti. Vi voglio bene, però quella è più bella, quella che manca, va bene? Andiamo, questo è, dai anche quando non hai. Perché ormai hanno tolto tutto di là, quindi posso andare a ruota libera. Perché sai, quando tu dai quello che non hai, puoi non avere, lo dai comunque. Se tu già respiri, stai dando. Se tu sei con il tuo amico, stai dando. Che cosa stai dando? Se tu sei al lavoro o se tu sei con la famiglia, stai dando comunque. E allora il nostro impegno è quello di poter dare, a chi non ha il Signore, anche se mi devo obbligare, anche se non lo farei, non si costruisce la casa con il se, se no è con l'operativo, è con l'essere operativi. A questo il Signore ci chiama. Ora veramente terminiamo. Vi faccio vedere prima una fotografia e poi un'altra cosa. Forse siamo andati un po' oltre. Avete fame? No, eh? Bello, è buono. Questa è proprio fresca di giornata. È di ieri. Ieri, vedete? Albè, qualcuno ha preso il posto tuo alla macchina, eh? Lo vedi? Va bene? Tre in tre. Abbiamo prima tirato tutta l'edera, Alberto ha anche tirato l'edera, abbiamo tirato tutta l'edera, e se andate a chiedere come stai, sapete che cosa vi dicono? La schiena, è vero, la schiena, ma la gioia di poter servire e fare qualcosa. Per chi l'hanno fatto? Io ve lo dico, per loro stessi. Per noi stessi che siamo andati, perché c'è più gioia nel dare, dice la parola di Dio, che nel ricevere. C'è più gioia nel dare che nel ricevere. Perciò poi hanno raccolto tutte le frasche per poter a buttare, insomma, la retromarcia di Clarissa. Allora è incredibile, è stato molto, molto bello. E adesso vi faccio vedere qualcosa. Qualche altra cosa che ha dell'incredibile. Prima che la vediamo, prima che guardiamo la foto che ci fa da esempio, due o tre settimane fa, non mi ricordo, c'è stato qui un incontro di tutti i responsabili delle aree. Solo i responsabili, non gli appartenenti alle aree di servizio. Sapete in quanti si era? 75 aree o responsabili, perché c'era anche a coppia, anche di più, 75 persone si era. Ora io mi sono divertito a pensare e scrivere tutte le aree che a modo mio ci sono nella Chiesa e ve li faccio vedere. È incredibile, sono 31 aree, vabbè, la coppia pastorale, i leader che la affiancano, la segreteria, vabbè, la segreteria, quella è quella, ce la dobbiamo tenere, allora è molto bella, ma predicatore, di cui anch'io faccio parte, anche quello è un servire. Vi ho servito con tutto il mio cuore, non l'ho fatto bene, ma non fa niente. Importante è che prendi quello che hai potuto apprendere questa mattina. Regia, proiezione, luce, audio, telecamera, runner, che per capire runner pure come si scriveva, va bene. È quello che porta, che deve accudire al palco. Vabbè, poi l'ho capito. Non... Bambini, quanti fanno parte dei bambini? Quanti fanno parte? La guida dei preadolescenti, adolescenti, donne, prematrimoniale, capigruppo, preghiera, un'infinità. E così via dicendo, benvenuto, Servolution, bar, leviti, per capire pure i leviti chi erano, va bene, non lo sapevo, mi sono impegnato, poi alla fine ho capito che sono quelli che ci servono andando a contare le offerte che noi facciamo. Va bene, anche quello è un servizio che ci viene fatto per la trasparenza, per essere aperti nella Chiesa. Ora, può essere anche che tu dici, ma io non mi sento in nessuno di questi 31 aree. Vabbè, allora sei proprio tu, Ma va bene, accettiamolo. E allora inventa un'area che è più consona ai tuoi doni, alle tue capacità, alla tua persona. E mi raccomando, quando hai inventato un'area, non andare, ma quelli della Loda Adorazione hanno detto non ce la facciamo più, non andare al pastore, qui termino, non andare al pastore dicendo, pastore, però dovreste fare anche... No, puoi andare dicendo, io voglio impegnarmi nel vedere se riesco a realizzare questo. Ora, io termino qui e vi lascio questo, può venire tutto il gruppo, tanto non c'è, abbiamo tolto a Giuseppe un onere. Lo lasciamo fino a che può stare. Continua a leggere. Continuo a vederlo e chiediti, posso far parte di una di queste aree? Mi voglio sforzare, anche se non mi sento, vorrei farne parte.